Dialogo quarto. Raccontò Umm Farwa: un giorno fu chiesto all'apostolo di Allah: o apostolo di Allah, qual è l'azione più meritoria? Rispose: eseguire ognuna delle 5 devozioni quotidiane obbligatorie all'inizio del suo tempo.